non vi sarà sfuggito, spero, che lunedì il Corriere della Sera, nel suo piccolo, si è sforzato di emulare il leggendario numero del Manifesto in cui lo scorso 3 novembre si annunciava a piena pagina la vittoria di Kerry alle presidenziali americane. L'evento giornalistico da cui si partiva era forse di minore portata geopolitica, riferendosi alle primarie dell'Ulivo allargato in Puglia, ma ciascuno deve accontentarsi di quel che trova e i redattori dell'eminente quotidiano milanese hanno fatto del loro meglio, riferendo su quattro colonne più foto a pagina 6 che, ancorché il candidato di Rifondazione Ivi avesse raccolto molti consensi, il titolo anzi era dedicato alla sorpresa Vendola, la vittoria era andata come previsto al candidato della Margherita. E proprio come i loro antesignali del Manifesto, non si sono limitati a dare la notizia, ma si sono applicati con zelo al commento, insistendo soprattutto sulla soddisfazione generale che un simile esito aveva prodotto. Contento Boccia per essere stato preferito dagli elettori, contento Vendola per aver ampiamente superato la percentuale prevista, contentissimi leader tutti della coalizione, compreso Arturo Parisi che di solito non gliene va mai bene una, per il clima di concordia che il nuovo miracoloso strumento delle primarie aveva propiziato tra i loro spesso indocili seguaci. Beh, come si è visto, non era vero niente. Boccia ha perso, Vendola ha vinto e l'inversione dell'ordine dei fattori ha cambiato radicalmente il prodotto. È da martedì che a sinistra tutti litigano con tutti, non tanto su Vendola, al quale hanno garantito all'unanimità l'appoggio del caso, e ci sarebbe mancato altro, quanto sulla logica e utilità di quell'istituto là. Per quanto posso averne capito io, estraneo qual sono da un po' alle minuzie della politica, i partiti maggiori della coalizione si sono dichiarati favorevoli alle primarie che più non si può, ma solo a patto di definirne l'esito a priori. E tanto è vero che dal loro punto di vista le primarie ideali sono risultate essere quelle a cui si presenta un solo candidato, e se per caso ce n'è un altro, costui ha il dovere democratico di ritirarsi in fretta. E ammetterete anche voi che dal punto di vista della democrazia interna un'ipotesi del genere, per quanto gradita possa risultare alle segreterie, dà adito a qualche sommessa perplessità. Naturalmente la situazione è più complicata. Le primarie, si sa, sono state inventate negli Stati Uniti d'America, dove non esistono dei veri e propri partiti organizzati all'europea, proprio per ovviare a questa mancanza, cioè per offrire un terreno su cui si possano mettere a confronto i diversi aspiranti alla candidatura. Le procedure variano da Stato a Stato, ma il principio di fondo è quello che chi vince vince e chi perde sparisce, almeno fino alle prossime elezioni, in cui peraltro il ripescaggio di eventuali trombati alle primarie scorse è un evento tanto raro da essere eccezionale. In Italia, dove nessun politico che io ricordi ha mai preso in considerazione l'ipotesi del ritiro a vita privata, per quanti calci nei denti possa aver preso dagli elettori o dalla concorrenza, e un modello del genere non ha senso. Infatti le primarie, come già successo ai referendum e ad altre istituzioni di democrazia diretta, sono state interpretate, diciamo, in modo creativo. Prodi le ha volute permettere la sua investitura al sicuro dalle insidie di quegli apparati di cui ha motivo di diffidare, Bertinotti vi ci si è aggregato perché nella sua situazione arrivare secondi è meglio che primi, e gli altri le hanno subite perché come si fa a dire di no. Ma nessuno, né Prodi, né Bertinotti, né gli altri, ha mai pensato di mettervi in gioco la propria personale sopravvivenza politica. Il che in fondo è abbastanza logico. Politicamente il nostro paese è il paradiso dei revenants, e anche se a volte vi si definisce esponenti della società civile o della tradizione riformista lombarda. Ma allora, perché ha fatto tanto chiasso la vittoria di Vendola, che tutti assicurano essere una degna persona, ma che con i 30 anni di politica che si trova sul groppone non rappresenta esattamente l'esempio dell'uomo nuovo, del militante estraneo alle burocrazie in quanto incarnazione del genuino spirito popolare? Ha fatto chiasso perché, come dimostra il modesto infortunio dei colleghi del Corriere, ha contraddetto le previsioni correnti, incluse probabilmente le sue. la classe dirigente della sinistra ha interiorizzato a tal punto la teoria politica classica, quella per cui per vincere bisogna spostarsi al centro, scegliendo candidati e programmi tranquillizzanti e lasciando agli eccentrici più o meno il ruolo di Rigoletto alla corte del Duca di Mantova, che serve anche lui naturalmente, ma a patto che stia al suo posto, e l'ha interiorizzata a tal punto che non riesce neanche a concepire l'idea che il suo elettorato possa avere in merito qualche progetto differente. È altamente probabile che quei 40.000 cittadini pugliesi abbiano approfittato della prima occasione che gli si è offerta per ricordarglielo. Il che, lo ammetterete, pone un problema di rappresentatività che, in vista del calendario elettorale che ci aspetta, dovrebbe essere considerato davvero primario.